Grey's Anatomy. E dopo Luca Ward, un altro grandissimo attore, doppiatore, che si è avvicendato in questi microfoni di Voice Anatomy, di Radio 24, che tanto successo ha avuto, e noi vogliamo riproporvi questa bellissima intervista che abbiamo fatto al grandissimo Mino Caprio. Lui si chiama Guglielmo, detto Mino, nasce a Roma il 17 novembre del 55, attore, doppiatore, regista teatrale, ma prima di intraprendere l'attività di doppiatore è stato professore di diritto nei licei e all'università per 3 anni, non dire niente. È noto soprattutto per aver doppiato il personaggio, non ve lo dico se no lo capite immediatamente, ma tanto l'ho già detto. A questo punto vi faccio dire soltanto il suo nome e cognome e capirete di chi si tratta. Prego. Posso parlare? Ecco, adesso posso pronunciare qualche parola? Sì, puoi dire tutto ciò che vuoi. Dito. Allora, il mio nome è Mino, nel senso che anagraficamente è Guglielmo. Guglielmo. Però, sai, Guglielmo, un bambino piccolo, essere chiamato Guglielmo, poi è lungo, il nome è lungo. Sì. Allora, Guglielmino, e quindi Mino, e mamma decise. Lo dice a me, Giuseppe, Giuseppino, Pino. Esatto, quindi sì. Pino, Mino, Dino, Rino. Siamo dei vezzeggiativi, non siamo dei nomi. Vezzeggiativi perché... viventi. Prendere. Posso salutare i tuoi ascoltatori? Assolutamente devi, perché sono loro dei milioni di ascoltatori, sono centinaia di migliaia, ecco, centinaia di migliaia. Veramente attivi, sono nell'ultimo censimento 400-500 mila, è una cosa enorme per essere Radio Domenica, ma soprattutto un pubblico attivo e molto attento e molto cattivo. Quindi, quando serve, complimenti a te loro che hanno avuto, sei anche l'ideatore di questo programma. Sì, insieme ad Alessia Navarro e Mauro Meconi stiamo portando avanti questo programma da 40 puntate più o meno, e che saluto anche Alessia e Mauro e la regia, sì, Alessandro, Gaia, Ilaria, tutti. Poi oggi c'è Barbara, la mamma, ha portato tutti. La moglie, perché non si fidava che Mauro venisse qui a fare la trasmissione, tornava sempre molto felice, aveva paura che non si trattava di questo. Grande Guglielmo, io mi dimmi, sono chiesto, dimmi. Ma perché mi ha invitato? No, nel senso, io non sono... Ma non volevo, io, ecco, ti hanno voluto loro. Ma immaginavo che io non sono bravo, io sarò uno dei... Quanti siamo ad essere doppiatori, attori doppiatori? 700? Non lo so, io sono i primi 8, Luca Ward i secondi 8, siamo 16 noi. E ti dirò, ho pensato anche, ma forse... Tu avevi pensato ai miei figli, probabilmente. Sì, ho pensato a Teo Achille, però tu hai detto Teo Achille. Allora, tu venivi da un nome importante. Sì. Gabriele ci sta e va bene, sono bravissimi, sono forse più bravi pure di noi. Ma Teo Achille, da dove nasce questo? Dopo una bottiglia di troppo? Guarda, Teo Achille ha delle ragioni, certo, senza dubbio. Nasce prima il secondo nome, Achille, che apparteneva a mio fratello. Ah, certo. Il mio adorato fratello. Che salutiamo. E poi, conseguentemente, è venuto il nome Teo, che piaceva molto a mia moglie, anche perché, sai, prima di Achille mettere un nome, che ne so, Massimiliano Achille, era troppo lungo, no, esatto, proprio. Quindi Teo, 3 lettere e passa la paura, perché non c'è nessuna desinenza etimologia di sportiva in tutto questo, c'è Teo, Achille, no, un grande eroe. No, certo, sono due nomi impegnativi, perché Teo è la radice greca di Theos, quindi Dio, Achille soldato di Dio, quindi insomma qualcuno dovrà pure ispirarmi, come dice Woody Allen. È oneroso da parte sua. E perché ho laureato in giurisprudenza all'improvviso decide di fare il doppiatore o l'attore, insomma. Ma tutto nasce dagli scranni scolastici. Sono per fare le arringhe meglio, sì. Dai. No, ma non è per quello. No, perché io pensavo che fosse, come direbbe Foscolo, un eroico furore che poi si sarebbe, come dire, obliterato nella polvere. Mamma mia, come parlo. Perché però abbiamo chiamato un altro tecnico, non abbiamo chiamato un attore doppiatore, ragazzi. Allora, no, a scuola facemmo l'ultima classe della quindi la terza liceo classico al Convitto Nazionale, Sogno di una notte di mezz'estate, e io interpretavo il ruolo di Teseo, il duca di Atene. Poi lo riproposi dopo, e quindi da lì è iniziata la passione per il teatro. Ma io anche alle scuole medie, tu ti ricorderai, la prosa in TV, i venerdì sera, veri, con gente con l'Empas, è vero. Ecco, esattamente, erano veramente famosi a livello di rockstar, no? Sì. Quindi quando li vedevamo in strada, correvamo da loro, ci fa l'autografo, che ne so, Warner Bentivegna, Paolo Carlini, Alberto Lupo, Walter Maestosi, che abita la Balduina, Walter Maestosi. E va bene, Roma, perché Roma. Ecco, Radio 24 è ascoltata da... dappertutto. Dappertutto. Sì, sì, non arriva. Perché Balduina, magari, se lo sente uno della Val Brembana, dico: Balduina, cos'è? Ecco. È una zona di Roma, di Roma Nord. Ecco, va bene. Vicino alla curva, ma Roma Nord. E quindi io l'ho riproposto questo sogno con altri attori, facendo la regia, adattando le musiche, eccetera, eccetera. E poi da lì mi sono iscritto appunto all'università, giurisprudenza, pensando sempre con la solita retorica conseguenziale che il diritto, studiando legge, ti possa aprire qualche sbocco lavorativo. Certo. E infatti poi ho insegnato diritto in una scuola al Gian Galeazzo Visconti, però intanto era nata la passione per il teatro e poi è venuto anche il doppiaggio nel primissimi anni 80. Poi, diciamo, la tua voce è insostituibile davvero, perché non lo so, sì, guarda, no, io credo che siamo tutti sostituibili. Sì, però, per carità, succede qualsiasi cosa, continuano a fare i turni tranquillamente, ma io credo che Griffin senza di te o tante altre cose sarà difficile. Insomma, guarda, insomma, merito anche di Peter, che è così simpatico. Sì, certo, è vero, loro hanno già fatto. Io poi seguo dall'altra parte American Dad, è sempre Mike Farley, per cui io e te siamo la due facce della stessa, medaglia. Ce lo sentiamo subito un Peter Griffin, dannata? Vai. Questo chi è? E tu chi sei? Dov'è Peter? Dov'è? Sei una puttana. Truccati come una puttana, puttanona. Vi è qualcuno in bagno? Occupato! Brutta baldracca, sei un padre di famiglia. Ricordo ancora il giorno che imparai ad usare il water. Ero così orgoglioso di me stesso. Mi piace quello che fai, Lois. Ti amo da impazzire. Ti amo da impazzire, Lois. Ok, maggiordomo Milpene. Maggiordomalo! Come fa ad avere un'altra donna? È sua moglie Barbara! Questo non è un tuo problema. Tu non hai visto niente. Non dimenticartelo o io ti rovino. Ok, ok, lo prometto. Sarò muto come un topo di chiesa. Sei rimasto un po'... Ma sì, questo no, è più Griffin. È trasgressivo. Trasgressivo, informale. Ma poi intelligente, irriverente. Vilipendioso. Lui ce l'ha con gli ebrei, con gli americani. Sì, con beh, tutti ce l'hanno. Insomma. No, ma infatti è la politica di Seth MacFarlane proprio che è così cattivo, fra sono virgolette. Testi geniali, Sì, dai, su, fra i Simpson e questi non sono intoccabili. Non sta a me dirlo, insomma, ecco, perché poi abbiamo i nostri carissimi colleghi che fanno i Simpson, quindi magari rimangono male. Sì, no, però diciamo tu hai sostituito anche il povero Milita. Mario, sì. Mario sì, Milita. Gli faccio nonno Simpson. Esatto. Abraham Simpson, che è il papà di Homer. Per e cui mi sono dovuto adattare anche alla vocalità. Beh, certo, di del Mario. Momento di Mario, come ecco si diceva prima poc'anzi, insomma, di entrare in studio anche il professor Finesworth dei Futurama. Di Futurama io ho sostituito Sergio Graziani, il grande, sì, Sergio grande Graziani, Sergio, che è un'icona del doppiaggio, che ancora c'è, che ancora, per carità, insomma, grande, Dio lo conservi a lungo. Oh, ma ho dovuto, come dire, imitarlo facendo un pochino la sua voce di Sergio Graziani. È vero che parla così, perché sempre. Sai Pino, ma tu voglio dire lo sai anche meglio di me, no, meglio no. Il pubblico si abitua a una certa vocalità, certo. Quindi e poi sostituire una voce con un'altra che contrasta quella voce, no, originale e originaria, stride quindi sì, si cerca di imitare un po', perché l'imitazione è importante. Sì, è difficile, come povero nel senso vivo, Massimo Lopez ha dovuto sostituire Tonino Colla, non è facile, anche se gli assomiglia eccetera, ma sai, quella è una vocalità importante. E lì c'era Alberto Pagnotta che era evidentemente molto aderente. Assolutamente, è vero, Pagnotta, però serviva anche la personalità di una persona conosciuta. Complimenti Mino Capio, grandioso. Grazie. Arthur Weasley, grandioso. Ah, Arthur Weasley è quel personaggio nel contesto di Harry Potter, sì. Cioè il papà dell'amico Ron, no? Dell'amico di Mark di Williams, poi l'attore. Mark Williams, sì. Allora sì, ce sì, lo sentiamo al volo, dai. Ci sta. Buongiorno. Ce l'abbiamo. Miei Weasley. Buongiorno Arthur. Che nottata. 9 ispezioni 9. Ispezioni. Papà lavora al Ministero della Magia, ufficio uso improprio dei manufatti dei Babbani. Lui adora i Babbani, li trova affascinanti. Finalmente. E tu chi sei? Oh, mi scusi signore, sono Harry, signore Harry Potter. Santo cielo, sei proprio tu. Ron ci ha parlato di te, naturalmente. Quando è arrivato, Harry? Stamattina. I tuoi figlioli hanno guidato la tua macchina incantata fino al Sarre e ritorno stanotte. Ma davvero? E come andava? Una meraviglia. Voglio dire, avete fatto molto male, ragazzi. Molto, molto male. Dunque, Harry, tu devi sapere tutto sui Babbani. Qual è, con esattezza, la funzione di una papera di gomma? Sei l'amico di ognuno, Mino. Allora, ecco, vedi, in questo si avvicina di più come vocalità a quella del maggiordomo della Tata, Daniel sì. Davis. Mentre è, certo, la vocalità basica è quella. È la tua, beh, ognuno ha, ovviamente. Abbiamo la nostra musica. Però, ecco, diciamo che io mi sono ispirato come... perché noi siamo amanti poi dei nostri padri, no? Se facciamo doppiaggio lo dobbiamo a loro. Carletto. Quindi, Romano. Esatto. E il Jerry Lewis della situazione. Lo sai fare, vero? Salve ragazzi, quando sono nato mia madre non c'era. Ecco. No, quindi, ancora. Jerry Lewis, insomma, sì. Per antonomasia, Carletto Romano. Tu è sei stato il Carletto un Romano di questa maestro, generazione. Perché, sì. Quindi, sai, ascoltando i film sin da piccolo, e chiaramente se uno ha un pizzico d'orecchio, li memorizza, li ama, li fa propri. E quindi ho utilizzato un po'. E insomma, Peter Griffin è il Jerry Lewis degli anni 2000. È vero, è così. Io credo che sia così. E tu sei il Carletto Romano degli anni 80-90. Non 2000. Lo so. Sì, no, te lo dico. Io se lo diciamo dici tu, No, diciamo tutti noi, dai. Devo dire che è un ambiente dove ci si vuole bene, perché siete, ma io voglio fare sempre un passo indietro, ma ovvio, la mia professione, tutti bravi. Cioè, lo dico sempre fino alla nausea, se perdi un provino duro vince un altro bravo. E... insomma, c'è tanta professionalità quello senza dubbio. Dai, sì, sì. Mannaggia, ha vinto Massimo Romano, mannaggia Brando, Luca Uo. Però comunque, cioè, non è, dici, certo. Mannaggia come in televisione, conduce sto programma Antonella Brichini. E dici, chi è? Ma lasciamo sta, non si può fare. O Mario stesso, non è solo maschio o femmine. Senti, tu hai passato, intanto... Tu hai recitato con Salvo Randone, per esempio, a teatro, hai debuttato sì, lì, una grande personcina. Patrimonio artistico. Beh, santa miseria. Sì. Come fortuna, io dico sempre dai, che no. Sono momenti fortunosi che capitano al momento opportuno e quindi ti va bene. Perché io mi ricordo che al provino, pensa, per quel ruolo ci fu, ma è bene dirlo, no, forse sì, è meglio di no. Vabbè, ma non è che l'hanno perso perché erano meno bravi, eri più giusto. Vabbè, c'era Tirabassi, c'era Luca Dal Fabbro e anche altri. Vabbè, dai. E poi regista, insomma, scelse d'accordo con Salvo Randone, perché Salvo Randone ogni cosa che si muoveva era lui, no, che stabiliva e dava gli input, e per cui e gli serviva una tipologia un come la tua fisica, sì, era un coprotagonista a tutti gli effetti. E sai, quando io avevo questi dialoghi con lui, noi due in scena, ce l'hai registrati almeno qualcosa? No, tanti anni fa non c'era niente. No, era nell'89. Non c'era neanche un VHS pagando loro. No. Mi ricordo che avevo fatto il film di In fuga per tre, il primo film che doppiai di Martin Short. Sì. Esatto. E anche tu hai doppiato. L'ho fatto nel primo film, I tre amigos, ecco, sì. L'ho fatto io, poi tu l'hai seguito. Tu e Vittorio Stagni un po' all'inizio. E poi all'inizio, tu... Beh, tu e Vittorio, allora dobbiamo invitare Vittorio Stagni, uno della prima generazione, ancora una vivo. Una voce storica anche la e sua. E pimpante, come no. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, alto record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci. E vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Voice Anatomy. Mi dicevi ti dicevo, hai personali. Passato un momento duro, nel senso che, visto che noi lavoriamo col cuore, tu col cuore... Sì, diciamo, ha fatto un brutto scherzo poco tempo guarda, fa. Guarda, all'aorta soprattutto, che avevo questa ectasia, come dicono i medici, una dilatazione che poi è l'aneurisma, cosa che aveva anche mio fratello. Tuo fratello. Mio fratello non ce l'ha fatta, io sono fuggito da Roma e sono andato al Sant'Orsola di Bologna. Mi piace spendere questo nome perché abbiamo tanti centri di eccellenza molti, in Italia. Molti. Quindi non che i medici romani non siano tutti bravi, però io decisi di fare questa scelta. Sì, sì, esistono più gente brava, come esistono più brave persone che cattive persone. Esatto. Diciamo, uno sì, c'ha la fortuna. La sfortuna di capitare male può succedere. È vero, come ci sono laziali e romanisti, no? Esatto, è uguale, sì, sono tutte e due brave persone. Poi ci stanno dei laziali non brave persone e dei romanisti non brave esattamente. Persone. Esattamente. E al che lì sì, mi hanno clampato un pezzettino di aorta ascendente, me l'hanno sostituita e mi hanno sostituito anche la valvola aortica di cui si sta parlando in questi giorni. Ah sì, con il Cavaliere. Un nome un po' più importante del mio, che è il Cavaliere. Vabbè, sono stati attenti anche su di te, sei qui bello sì, pimpante. Sì, è vero, è vero. E quindi sai, diciamo, lo posso raccontare. Esatto. E questa è la cosa importante. Però so che hai scritto una cosina, non so se ti va di dirla, sì, sulla morte, sì. Ma fra virgolette la morte. Sì, ti dirò, volevo iniziare anche un racconto su questo mio intervento. Dimmi. Con inizio di... l'avrei iniziato con c'era una orta. C'era una orta. C'era, come direbbe Peter Griffin, c'era una orta, ecco, e la sua valvola. Allora, invece no. È così, io ho pensato, era facile che pensassi a un, chiamiamolo, un componimento, no? Sì. Che scrissi tanti anni fa sulla morte, una morte stanca però, ecco, una morte che ci vuole parecchio che ti possa chiamare, ti possa convocare a sé, ti possa avvocare a sé. E questa morte, diciamo, inizia così. Mettiamo una musica, la vuoi? Eccola. Tiè, dai. Oh, bisogna dire che ci sono due cimiteri a Roma importanti, uno monumentale che è quello del Verano, sì. E l'altro più recente, più moderno, che è quello del Flaminio. Lo dico per chi non conoscesse questi due centri. Mm-hmm. Allora, Madama Scrocchia Zippi da poco si è levata. Ha detto che voi esci a fa una promenata. È un gallicismo. Lemme lemme, a volta drento a una pallandrana nera, te fa l'occhietto e te sussura. Volemo fa stasera? Se no potemmi rivedessi in altra data. Dipende dall'appuntamento. A come sto fissata. Vedemmo lì sta le mano. Ecco, c'ho solo un buscio fra tre giorni. Te fa una cortesia, però non ti aspetta che ci ritorni. Lavoro sola, purtroppo faccio quel che meglio posso. Chissà se è la fatica che m'ha ridotta tutta nosso. Col personale scioperante giù de sotto è in gran casino. Che inferno! Senza ni manco un becco d'un becchino. Perciò, se per trapasso la procedura la puoi fa te, mi faresti un gran incomodo che attoccherebbe a me. Perciò sta ben attento a come sta la prassi. Di che te manno io e te daranno il passi. Dopo, appena entrato, svolta. In dove? E che importanza c'ha se è prima porta? Che dè? Te pare strano? E allora va a tenar verano. È bello, insomma, bello, è strammatizzante. Certo. È una morte si è stufata pure lei, capito? Pure la morte si è stancata di vedi che far te da mano caronte, esatto, insomma, io non ne può più. Tocca a te, ma non so come fare due tre giorni. Bella, bella questa cosa che ti ha dato la forza. Perché, insomma, grazie. Mollare mai, come diceva grazie. All'inizio Paolo Sassanelli, mollare mai, mai. Poi è un nostro anche must dal grazie. Punto di vista sportivo. Ci sono i figli poi, caro sì, Pino, no? Come vabbè, tu sai. Ragazzi, quanti anni hanno adesso Teo? Allora, Gabriele 12 e Teo 9 e mezzo. Senti, ma uno dei tuoi figli adesso è mio, io ieri sera ho visto un film, ho mandato anche i complimenti a Filippo Nigro, che spero di avere presto questi microfoni. Ma l'hai visto In fondo al bosco? In fondo al bosco, lì era figlio. Teo l'ha girato a Vigo Val di Fassa. Ma Teo è il grande? No, è il secondo, cioè, lì quindi era pure più piccolo. Quanti cioè, anni 8 anni. Aveva 8 anni, sì, e a tra febbraio e marzo è il protagonista poi. Beh sì, insieme a Filippo e a pazzesco. Camilla Filippi, sì, Filippo Nigro, bravissimi tutti. Sì, io anche la regia, sì, bellissimo. Stefano Ludovichi. Li incontrai una volta a Monteverde. Poi conosco bene Filippo. Abbiamo fatto una cosa insieme. Persona estremamente gentile, adorabile. Sì, bisogna, a me piace parla bene. È vero, hai ragione. Non bravo. So se è più bello parla bene o parla male, ma credo parla bene è la cosa più bella del mondo. Soprattutto dei colleghi. Filippo sì. È straordinario. Sì. Mi ha dato un messaggio stanotte. Il film è straordinario. Sembra un film. Oltreoceano, no? Come quando uno dice bello, inquietante. Ricordava un po' quello spirito dei fratelli Coen, no? Fargo, bellissimo, però fatto bellissimo. Molto bene. Non perché ci fosse stato mio figlio, ma sembrava un film prima d'horror, poi sulla sparizione, poi un film psicologico, poi sulla malattia, poi invece sull'assassinio carnale. Sì. È bellissimo, tre colpi di scena negli ultimi 20 minuti. Grazie, ma Pino. Che bello, e quello è tuo figlio. Sì. Io ho letto e ha fatto poi tutt'altro invece con Come fai sbagli, quella fiction che è andata su Rai 1, lui faceva il figlio di Daniele Pecci, della Inaudi. No, ma c'ha una faccia pazzesca. Ieri sera proprio noi guardavamo con mia moglie, diceva, dovrebbe essere il figlio di Mino Capri. Ho fatto, ma non lo so, mi sembra strano, non lo so se è suo figlio. Poi invece è tuo figlio. Beh, guardatelo, questo è un film che lo stanno facendo su Sky, perché è prodotto anche su Sky Cinema, prodotto anche da Sky Cinema. Ma che faccia inquietante, sembra Damien tuo figlio. Sì, è stato molto bravo. E devo dire, non gli ho dato una mano, perché poi lui è partito con mia moglie, io sono rimasto a Roma. Eh sì, perché hanno girato al nord. Hanno girato al nord, sì, Val di Fassa, dove era? Val di Fassa. Val di Fassa, sì, proprio. Sì. Ma che film, pazzesco. Dolomiti. Siamo bravi in Italia, ce lo dimentichiamo che abbiamo inventato un po' tutto. Ce lo dimentichiamo, vediamo che succederà. E pensa, calcio. Chi voleva andare al cinema a vederlo, doveva andare per esempio all'Adriano, che è un cinema romano, sì, a Piazza Cavour, alle 23 di sera, un solo spettacolo. Ecco, questo è il problema del cinema. Strano, italiano, del film d'autore. La distribuzione. Così lo distrugge il film d'autore. Sì, ma poi il film d'autore, ma accessibile a tutti, perché è veramente un film interessante. Io ieri ho cominciato a vederlo perché dico, Filippo me ne aveva parlato, non sono riuscito a vedere al cinema perché hanno fatto proprio una distribuzione rapida, eccetera. Ho detto, ma guarda un po', vediamo com'è. Oh, non mi sono scollato da quel televisore. Ma bello, bello, e lo dico, capito? Te lo sto dicendo gratuitamente. Grazie, non è grazie. Che assolutamente non pensavo tutto grazie. Questo. Sentiamoci un pezzo di Martin Short di In fuga per tre. È un amico di mio padre, bravissima persona. Ti rimette a posto, sperando che sia in casa. Dottor Horvath! Ok, andiamo. Su, forza, forza. Ecco, tu resta qua, vado a chiamarlo. Questo è un dottore. I dottori devono denunciare le ferite d'arma da fuoco. No, questo no, è un amico di mio padre. Oggi non c'è più questo genere di amicizia. Se è un dottore deve chiamare la polizia. Non è un dottore, è un veterinario. E poi non è tipo da chiamare gli sbirri. Dottor Horvath! Ma chi è? Salve, dottor Horvath. Si ricorda di me? Ned Perry. Giorgio, amico mio, come sei gentile a venire a trovarmi. No, non sono Giorgio, sono Ned. Giorgio è mio padre, ho bisogno del suo aiuto. E come? Vede, un mio amico si è ferito e io gliel'ho portato, l'ho messo nel suo ambulatorio. Ferito? Ah, ma io non esercito più da molti anni, Giorgio. Sì, lo so, ma è combinato male e io non sapevo proprio a chi altro rivolgermi. La prego, dottore, me lo visiti, è urgente. Te lo visito, ma io ormai ho disimparato, Giorgio. E poi di che razza è? Ecco, un sacco di messaggi che ti fanno i complimenti. Poi uno, viva le Dolomiti, montagne magiche molto spirituali, parlavamo di quello. Certo, Pino... è una vocalità giovane, sì. Pino, perché l'ho fatto questo nell'89. Vabbè, come... ma tanto sei tu. Le voci poi cambiano, sì, ovviamente, ma che caso, s'anzianizzano, si invecchiano. Se veramente mi dicono un uomo saggio, parlare bene dei colleghi da uomo buono e maturo, ma parla bene dei colleghi bravi è bello, parla bene dei colleghi cattivi invece è ipocrisia. Non se ne parla poi. C3PO in Star Wars, vabbè. Ma che ore sono? Mi devo prendere l'anticoagulante. Oddio, fai l'anticoagulante. Questo. Sì. Ma che ci abbandona durante. Sei proprio. Secondo me sei più di Peter Griffin. Tu. No, no, e questo lo devo prendere. Ogni quanto. Se no, poi. 2 ore lontano dal pasto e poi 2 ore dopo. È tutto vero. Cioè, intanto parlo io se vuoi. Ne ho devi pure spezzare. Ecco, sì. Ieri ne ho presa una. Quanti ne devi prendere al giorno di questi? Una o tre quarti o una intera. Al giorno, una sola? Sì, per tutta la vita. Sembri un personaggio di film, invece è vero, si sta prendendo in diretta un anticoagulante. Sì. E questo è come la spiega, vabbè, non per so evitare, si possono fare i nomi. Per evitare delle... Pino i trombi, qui chi tromba più? Nessuno. No, per evitare... non voglio entrare nel merito. Ma mio, non è che figlio di un anno non e mezzo, si tromba lui... più, la... fatta l'Italia, facciamoci le italiane, come diceva Massimo D'Azeglio. C'è anche un TED 2 dannata dove anche lì, c'è il Seth MacFarlane. Col bong, lì, questo... andiamo sulle canne lì. Lì c'è l'orsacchio che ha fatto un grandissimo tremendo. Successo il primo, il secondo leggermente meno, ma comunque in grande personaggio. Ma tu parlavi personaggio. Di C3PO però. Prima era C3PO, non ho nessun tipo di... come parla C3PO? Lì c'è... C3PO mi sono ispirato al mio maestro, che è Oreste Leonello. Tu hai cominciato con lui, con Troilo e Cressida. E Carlo Baccarini ti ha introdotto. Carlo Baccarini mi ha introdotto, Oreste Leonello mi fece fare questo provino, ma guarda com'è andato, fu un atto, un mini atto unico. Che persona meravigliosa. Ma poi di cultura, sì. Di cultura. Adesso io dico che lui è stato il mio maestro. Certamente tutti i direttori, quando inizino a fare questo tipo di attività o qualsiasi attività, ti danno qualcosa a tutti. Certo. Ti danno qualcosa a tutti. Lo dico questo perché Michele Gammino ti dice: tu hai iniziato con me. E allora io non è che voglio dire che Michele non mi abbia dato qualcosa, come no. Immagino anche a te. Però ecco, devo dire, in assoluto il primo è stato il grande Oreste Leonello. Sì, ma tu sei poi più vicino vocalmente come a questo corde, tipo come di corde, sì, no? Carlo sì, Romano, Oreste Leonello, sì. Vittorio Stagni, che ne so. E insomma, lui mi sentì, era una saletta, quella decentrata della CTA in via Pieve di Cadore, parliamo sempre di Roma, sì. E c'era da leggere le prime righe, insomma, le prime battute di questo Troilo, questo protagonista di questa opera shakespeariana di alta poesia. Alto spessore drammaturgico. Ebbene, lui mi disse: lei come si chiama? Caprio, Gabrio, no Caprio, leggo le prime battute del personaggio, io l'ascolto, e si mise a girare mentre io tentavo lì sullo schermo, c'era il personaggio appunto, e si mise a girare attorno al leggio con le mani dietro la schiena, c'aveva il paltò, il cappotto, e poi c'aveva un cappello con una piuma, e io comincio lì a dire delle cose. Adesso io non posso ricordarmi le battute, no, certo, di Troilo. Troilo prenderò a prestito, ecco, il sogno di una notte e mezza estate, il Duca d'Atene, quello perché lo so, ho iniziato con quello, quindi che ti posso dire? Ben tre volte beate le fanciulle che vinto il sangue seguono il sentiero di castità, ma in terra più felice la rosa onde spillasi il profumo di quella che su intatto spinola. Alt! Mi fermò, lo fa lei. Ecco. Subito a me ha preso un colpo veramente, insomma. Ma poi perché... lui era veramente di un'intelligenza. Abbiamo avuto qui, Cristiana, con la quale abbiamo parlato di Oreste. Ha reso veramente, Woody Allen se l'ha inventato lui in Europa, non in Italia, in Europa. E disse: dia il suo numero di telefono all'assistente. Poi a un certo punto sta per varcare la soglia dello studio, torna indietro, ho detto oddio, se ne pente, e quindi mi caccia via e fa: si ricordi, saranno 8-9 turni di colonna separata, sarà una tortura. Pensa un po'. E furono turni, secondo me, universitari. Cioè, io ho conosciuto me stesso attraverso questo personaggio. Un contratto di formazione. Sì, sì, sì, mi ha formato veramente. Ma che bella cosa. No, ma lui poi ha fatto un adattamento del Cyrano de Bergerac che non ha mai riscritto. Io ho sempre detto: Oreste, ma dove si trova? Fantastico. Non l'ho mai riscritto, non so fare la sua voce. Grazie. È solo quando fa. Sì, con le sue incespicature che faceva Woody Allen. Oh, Gesù, io. Quelle cose fantastiche. Le allungate, sì, io ho fatto un paio di film con lui di Woody Allen. È una tecnica incredibile. Come si titola il film che stai elogiando? Che stavi elogiando? Se è un film d'autore, lo guardo di sicuro. È un film d'autore perché è fatto bene, ma è un film veramente nazional popolare. In fondo al bosco. Di Sky Cinema di Ludovici. Stefano Ludovici. Esatto, ma guarda, è bellissimo, guardatelo, grande ansia se c'è dei figli, io sì, volo svegliare mio figlio stanotte, giuro, e abbracciarlo, hai ragione, sì, perché proprio mi era preso proprio male. Perché poi ti commuove anche. Sì, bello, colpi di scena su colpi di scena, veramente, lo stiamo elogiando tantissimo, ma è giusto che sia così. Alessia Navarro non mi dà più neanche i tempi, non mi dice neanche le domande che devo fare, cioè proprio non ho più, Mauro Meconi sta abbracciato alla moglie Barbara, cioè mi segue solo Gaia e Alessandro e Mino Caprio. Ma ti sembra giusto che una trasmissione così importante, in una radio così importante, tu debba essere lasciato un po' al tuo destino? Ma perché sanno che tu sei un grande maestro e un grande padrone di casa e quindi ti lasciano la tua arte. Meno male che c'è Mino Caprio, ecco. Guardate, meno male che è venuto Mino. Qual è il film a quale sei più affezionato intanto? Poi leggiamo questa... Sì, il film a cui ho affezionato, vediamo un po', forse Il padre della sposa, che era in doppio. Martin Short anche sempre lì. Con Martin Short. Ah, parlava una lingua. Aveva una lingua tra il maggiaro e l'americano. Sì. Con tanto di testa, che e papà Bilo. che mi uscivano fuori anche delle parole anche abruzzesi. Aprisci quella parte, queste cose così, insomma. È bello che tu c'hai ancora questa voce di testa, non te l'avevo mai sentita. Sì. E beh, quando è Martin Short è di testa. È bello, e qui siamo a Boys Anatomy. Mi hai detto, questa è una poesia che si intitola. Ma sì, io insomma ho dei componimenti giovanili, no? Sì. Cose originali, insomma, sì. No? Perché si parla dell'amore. Cioè io invece l'ho fatta sullo sputo. Ecco, lo sputo, stai vedendo gli sputi anche in terra, eccetera. Va bene, pronti. C'è della musica anche come sottofondo? Sì. Bianco, spumoso, imponente, fresco ristoro lasciato dalla gente. Lungo le vie, lungo le strade, ancore salutifere, laghetti bianchi sparsi nelle ombrose contrade. Nei giorni poi di calura, quando il sole scotta, si spera che tra un mozzicone e una bottiglia rotta si possa avvistare di lontano l'anelata fonte nei pressi di un portone, o magari d'incanto dall'alto di un balcone, per iniziativa di un comune pierino intento a centrare il cappellino di un'anziana passante incurante dell'agguato, riuscita per un soffio a scampare all'attentato, e di lassù il piccolo che piange per aver mancato. Morale esopica. Io che son formica affaticata e stanca, io che minuziosamente per lustro a destra e a manca, durante il viaggio periglioso o sulle strisce o su una landa pedonale, prego che fra 2 o 3 metri possa al fin trovare quella quella sorgente della lingua umana, e soddisfando la mia arsura quotidiana, possa vagar non più col malumore, ristorata grazie allo scatarro d'un signore. Non si sa se Peter Griffin si ispira a te. Hai capito che se non rispondi? Ma tu sei un poeta. A dissetare le formiche. A dissetare le formiche. Morale so. Bellissimo, bellissimo. Ma tu sei sempre stato il poeta di tutti noi. Crescere, approfondire, migliorare, leggere, viaggiare, vedere, partire, ricominciare, costruire, arrivare, imparare. 2017. Radio 24, libera la voglia di fare. Il 25 gennaio un gruppo scelto di ascoltatori di Melog avrà l'opportunità di visitare la mostra Homo Sapiens al MUDEC di Milano assieme a me. Per essere selezionati e far parte del gruppo degli eletti sarà necessario inviare due foto di se stessi alla mailbox melog@radio24.it. La prima foto dovrà essere del proprio passato e l'altra del presente. Gli ascoltatori dovranno indicare qual è stata la loro evoluzione o involuzione nel periodo che passa tra le due foto. Darwin ci ha insegnato che non sopravvive il più forte, ma il più capace ad adattarsi al suo ambiente. Ma noi quanto e come ci siamo adattati? 25 gennaio, ore 20:30 al MUDEC, via Tortona 56 Milano. Tutte le info su radio24.it. Anatomy. Devo dire che anche nei momenti sportivi divertenti, ironici, sì, perché secondo me lo sfottò sano è quello che tiene in vita, ecco, uno non sport volgare, no, non mai volgare, mai, volgare, mai mancare di rispetto a una bandiera, adesso sì, a parte gli scherzi, mai sputare sulle bandiere, sui colori degli avversari, e mai esiste gente che perde rispetto. La bandiera è l'unica persona che non si attacca in una guerra, addirittura il portabandiera è quello che si rispetta, per cui quando ci sono stati momenti pochi, devo dire, a favore nostri ultimamente, la poesia sul set era molto divertente, era molto carina e ovviamente rispettosa sul set della Roma, eccetera, eccetera. Poi hanno avuto questo gran finale con un direttore d'orchestra come Totti, bisogna ammettere la verità, ad avercelo. Sì, ma dai, lui poteva essere veramente il re di Roma, Non lo è, secondo me, a mio avviso, certo la mia è una valutazione biancoceleste, perché con noi è stato abbastanza crudo, un po' cattivello, diciamo tra virgolette, e quindi, ma altrimenti, ecco, se avesse avuto, che ne so, l'animus di un Di Bartolomei, avrebbe conquistato anche noi laziale. Sì, però tecnicamente, insomma, però detto sì, no comment. Mi diceva Alessia Navarro nell'interfono, la prego, mi dica, ci godiamo un Mino Caprio in TED. Grazie. Ecco qui, grazie e alla prossima. Salve. Giorno. Posso, vorrei farle qualche domanda su questi cereali. Ah, certo, certo, i cereali Trix. Esatto, da quanto ho capito i Trix sono esclusivamente per bambini, dico bene? Beh, insomma, dicono che i Trix sono per bambini nella pubblicità, ma... E questo è imposto dalla legge? Per quanto ne so io, no. Quindi se acquisto questi Trix non avrò problemi? No, dovrebbe essere a posto. Lei ha compreso bene che non sono più un bambino? Questo sono riuscito a fiutarlo, sì. Va bene, allora li prendo e me li porto via. Ah, certo, andrà tutto bene. E non sarò pedinato? Ah, no, non è compreso nel nostro budget, no. Non dimenticherò quello che ha fatto per me qui oggi. Preferirei che lo facesse. Non ci sono più le droghe di una volta. Stiamo parlando con Mino, che veramente servirebbero 2, 3, 4 trasmissioni per raccontarlo tutto, ma ci sarà occasione per tornare su di lui e sulla sua carriera. Gli abbiamo dato una cosa da leggere tratta da un film di Sacha Baron Cohen che io doppiai in arabo, che era Il dittatore, ed era divertente. Questa è un'esaltazione del dittatore, ovviamente ironica, qualsiasi persona si mettesse in ascolto adesso Mino Caprio sta leggendo un momento ironico di un film ironico capitanato da Sacha Baron Cohen, ma molto divertente questa esaltazione del dittatore. E allora ascoltiamolo con la voce di Peter Griffin in questo monologo. Perché siete tanto antidittatori? Cacchio e controcacchio. Immaginate l'America come dittatura. Potreste lasciare a 1% di popolo tutta ricchezza di nazione. Potreste fare i vostri amici ricchi più ricchi tagliando loro tasse e pagando cauzione quando perdono al gioco. Potreste ignorare esigenze di poveri come salute e istruzione. Porcacchio. Vostri media sembrerebbero liberi, ma segretamente controllati da una persona e da sua famiglia. Potreste intercettare telefoni. Potreste torturare stranieri prigionieri. Potreste avere elezioni truccate. Potreste mentire su perché vai a fare guerra. Momento. Potreste riempire le prigioni con un gruppo razziale di un certo tipo e nessuno protesterebbe. Potreste usare i media per spaventare il popolo in modo che appoggi politica che va contro i loro stessi interessi. Lo so che è difficile per voi americani da immaginare, ma provateci dai. E che cacchio. Bellissimo questo discorso alla nazione. No, rimettiti la cuffia, Mino, mica hai finito. Siamo ancora insieme. Senti, l'anno scorso hai partecipato a uno spettacolo teatrale inaudito di Giorgio Lopez, nostro amico e collega. Sì, Giorgio, c'era anche Paolo Buglioni, zio Alto Buglioni, dobbiamo chiamarlo, estimatore, bravi, bravissimo, e Giorgio poi fratello di Massimo, Massimo sì. Ma è un testo particolare, un'oretta, bello, surreale, insomma. Sai, ci torni al teatro, non è che il teatro non va lasciato mai, mai. Io 2 anni fa ho fatto un musical addirittura, con Brunella Platania, Enrico D'Amore, la regia di Marcello Sindici, era basato sulla le liriche di Giancarlo Acquisti, bellissime, sulla storia di Raffaello e la sua modella, la Fornerina. Hai capito? L'abbiamo che cosa fatto soltanto per pochissime repliche al Salone Margherita. Io mi auguro. Sì, adesso di il bagaglino sta diventando una cosa attenta. Di poterlo rifare, sì. Spero presto. Beh, bello, interessante. E poi i progetti futuri stai toccando pure tu? No, ha sempre come attore, mi hanno proposto una cosa secondo me bella. Fatti raccomandata tu, figlio. Ecco, sì, ma io infatti ormai sono papà d'arte, io mi considero papà d'arte, si dice non figlio d'arte, no, sì, papà d'arte. E, però non dico ancora niente per motivi scaramantici. Ce lo dice a settembre. Cosa avrà in serbo un croato, secondo te? Non lo so, che cos'ha in serbo? Ti è piaciuto? Che cos'ha in serbo un croato? Dio, ti amo, sì, non c'era arrivato, perdona. Tanta gioia, immagino. Che cosa avrà in serbo un croato? Ci chiudiamo la trasmissione. Questo con signore... questa cavolata. No. Senti, detto oggi, bene, perdonami, invece è bella. Dimmi tanto. Ultima cosa, sì. Giusto che siamo ormai in dirittura d'arrivo. Oggi è 12 giugno. Sì. 2016, ecco, un anno fa ci lasciava Vittorio De Angelis. Oh. E vorrei ricordarlo assieme a te. Sì, l'abbiamo fatto in questo momento e ti ringrazio, Mino, perché sai quanto affetto c'è per la famiglia De Angelis. Ho avuto la fortuna di avere sia Leonora che Maglio proprio un paio di settimane fa. Sì. E Maglio si muove sempre molto felicemente quando gli faccio un grande telefonata. Professionista, una persona veramente per bene, meravigliosa. Sì. Vittorio è lì. È lì, sì. Con tuo fratello, mia mamma e tanta altra gente, esatto, che affezionata magari a questa trasmissione con i loro cari, magari non ci sono più. Voi sanatomi, grazie. Ciao, per volerci così bene. Ciao. Ciao Pino. La tua musa è tornata! Ma io sono un fallito. Dovresti disprezzarmi. Smettila di fare il guastafeste e vieni a vedere che cosa ti ho portato. Un dono? Per me? Mi fai pensare al Natale con tutte le sue lucine colorate. Il dono dell'ispirazione! Questi? Grazie. Sono cuccioli. I cuccioli più peli, teneri e adorabili che io abbia mai visto in vita mia! Ma guarda che carini! Oh, bello cucciolotto pucci pucci patti pu pu pu. Bello, caticati pu. Hai visto che ha fatto? Oh, hai visto? Mi ha dato un bacino. Adesso gliene do uno anch'io. È fuori di testa. E naturalmente vorresti che io li dipingessi, non è vero? È un'idea assolutamente deliziosa. Mi fa veramente felice. Dipingerli, dice. No, mio caro. Non voglio che tu faccia un'opera d'arte sui cuccioli. Voglio che tu faccia un'opera d'arte con i cuccioli. Usa il loro mantello come tela. Crea un capolavoro con un nuovo strumento. Insieme sconvolgeremo il mondo dell'arte con la nostra spietata originalità. Ma questo significa... Come potresti fare una cosa simile a questi deliziosi cuccioletti? Col veleno, col gas? Eccoli lì! Sarò anche un eccentrico, ma non sono un assassino! Non torcerete un pelo a queste piccole innocenti creature finché potrò fare qualcosa per impedirvelo! Empty spaces, what we're looking for. Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? The show must go on. Show must go on. The champion's my friend. I face it with a grin. I never give an inch. Oh, the show, oh, with a show, with a show. Verona Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus. Voice Anatomy. E chiudiamo, signori miei, con un altro grandissimo attore, doppiatore, cinema, teatro, TV, doppiaggio, voce straordinaria. È un grandissimo amico mio, ma soprattutto di tutti voi. Lui risponde al nome e al cognome di Francesco Pannofino. Francesco Pannofino, nasce il 14 novembre del 1958. Ma lo vedi per forza. Ah, dai, che te frega, sei un anno più vecchio che me. Attore, doppiatore, direttore di doppiaggio, voce straordinaria di Josh Clooney, Denzel Washington, Kurt Russell, ma veramente ci metterei tre quarti d'ora per raccontarli tutti. Ha fatto anche un grandissimo Seven, Kevin Spacey, prima del sì. Pedicini d'annata. Sì, sì, sì, beh, opera giovanile. Diciamo. Opera... opera giovanile. Ce la sentiamo subito l'opera giovanile, un bel Seven... Kevin Spacey, subito, vai. Oh, un momento, tu hai solo ucciso degli innocenti, non confondiamo. Innocenti? Se è una battuta non fa ridere. Un obeso, un disgustoso obeso che faticava a stare in piedi. Un uomo che se lo incontri per la strada chiami a raccolta i tuoi amici per fartene gioco insieme a loro. Un uomo la cui sola vista mentre stai pranzando ti faceva passare la voglia di mangiare. E dopo di lui l'avvocato. In cuor vostro dovreste ringraziarmi per averlo fatto. Un uomo che aveva dedicato la sua vita al denaro, ai beni materiali, mentendo con tutta la veemenza di cui era capace, dando così a volgari assassini e stupratori la libertà. Volgari assassini? Una donna. Volgari assassini come te? Una donna! Così orribile dentro da non riuscire neanche a sopportare di vivere solo perché aveva perso la bellezza esteriore. Uno spacciatore pederasta, ad essere precisi. E non ci dimentichiamo di quell'altra infetta sgualdrina. Solo in questo mondo di merda si possono definire degli innocenti persone come quelle e rimanere con la faccia seria. Beh, bella. Bella, sì, non me lo ricordavo, però... Ma no, lì si sente che c'è, come diciamo sempre, un doppiatore deve essere un attore. Prima di tutto, sì. Quello assoluto. Quando hai intuito che la vita, il mondo dell'arte avrebbe fatto della tua vita, avrebbe fatto parte della tua vita professionale? Quando l'hai capito? Beh, prima di tutto l'ho sperato quando ero giovanissimo, insomma. Poi ci ho provato quando avevo 19 anni più o meno, ed erano gli anni in cui nascevano le TV private, quindi il lavoro del doppiaggio. Fino agli anni 70. Esatto. Arrivarono tutte queste anche di dubbio gusto, le telenovele, i cartoni animati, un po' così di serie B, eccetera. Però il lavoro aumentò vertiginosamente, quindi in quella infornata i doppiatori da 200 diventarono 2000. È vero, me lo ricordo perfettamente, cioè, perché prima tu facevi i porno, chi lo dici? Erano quelli, certo. C'era il cinema e quelli, poi ringraziando a Dio, quando si ama, febbre d'amore, Falcon Crest, esatto. Valle dei Pini, General Hospital. Cominciarono a fiorire tutte queste serie televisive, quindi il lavoro di edizione aumentò vertiginosamente, in quella infornata poi alcuni sono rimasti, alcuni sono spariti, però insomma poi c'è stata un'occasione, un'opportunità di lavoro in quegli anni, e quindi io ne ho approfittato, insomma. Già avere anche un po' di fortuna, come diceva Stefano Fresi prima. Sì, però ti ripeto sempre, io dico sempre la fortuna, però ti devi trovare preparato, esatto, in qualche modo, esatto. Dai. Quando arriva il treno devi essere la valigia pronta e entrare e via. Ma volevi diventare un calciatore? Sì, perché giocavo abbastanza, non come te, bene a pallone, no, vabbè. Però non abbastanza da poter ambire una carriera, ma tutti i ragazzini vogliono diventare calciatori, quelli che amano giocare a pallone. Naturalmente ho capito ben presto che non era il caso. No, c'erano quelli, cioè, cominciavo a andare in panchina a 16 anni, ho detto sa che non è aria. È come se adesso continuavi a fare uomo 3, medico 2. Capito? Allora dice, forse è qualcosa che non va. Che non quadra. No, allora poi me l'ho fissato di fare giornalista sportivo, volevo fare le telecronache. Comunque c'eri dentro. Sì, volevo fare le telecronache, mettevo il volume a zero e facevo le telecronache delle partite, a casa, da solo, come un deficiente. Difficile, la cosa più, io credo che sia la cosa più difficile del mondo. Sì, fare le telecronache. Ma sì, perché prendere, finisce, dopo ha passato sulla fascia, sì, cioè dietro a delle altri termini, infatti dei sinonimi, ogni due delle, sì, delle parole, dei neologismi, sciabolata. Vero, vero. Cose improbabili. A quel punto sì. Senti, però c'è il teatro, no? Tu sì, nasci, no, poi, lì, nasci proprio là dentro. Però avevo anche un altro talento personale privato, che era quello di rifare le voci, così anche un po' alla buona, se non sono un grande imitatore, però fare le scenette di Walter Chiari, allora nasceva Troisi, Verdone. Eri imitatore, questo non lo sapevo. Io ho visto a teatro. Rifacevo le scenette, tipo a scuola, capito? Eravamo un gruppo ed è stato proprio il gruppo di amici che mi ha incoraggiato. Mi ha detto, perché lo dico a lunga, diciamo, quello più sono talentoso. Quelli veri, il primo pubblico è quello. Esatto, è quelli che ti. E poi dopo, insomma, ci ho provato. E se non ci provi a quell'età, poi non ci provi più. Però quello è stato è importante, perché io vidi poi una cosa straordinaria a teatro, che era il Blues Brothers, se non sbaglio, con Neri Marcore. Neri Marcore, sì, facevamo io John Belushi e lui Dan Aykroyd. Ed era la vita di John Belushi al Teatro dell'Orologio, mi ricordo, bello successo. Grande successo. Ma prima ancora c'era stato Esercizi di stile di Queneau. È vero, è con vero. Ludovica Modugno, il povero Gigi Angelillo. Gigi Angelillo, e sì. Lì facemmo più di 1000 repliche, penso in tutto il mondo l'abbiamo fatto. Che tutto no, però insomma in giro per il mondo, in Canada, in Portogallo, in Svezia siamo e quello stati... è stato rappresentato fino a poco tempo fa, poi Ludovica l'ha riportato in scena. Sì, no, l'abbiamo fatto l'ultima volta nel 2009, che era il ventennale del... E poi non ha mai smesso col teatro, però. Cioè, no, non ha mai sempre, lasciato. Quella è proprio l'arte per antonomasia. Ma che scherzi, io quest'anno ho fatto una tournée lunghissima. Che e infatti non riuscivo ad averti ospite, quindi ogni volta dico, ma quando viene Pannofino? Non dipende da me, sta in giro. Sì, perché stavamo in giro con i suoceri albanesi di Gianni Clementi. Con Emanuela. Con Emanuela Rossi, sì. Eravamo... Lei è riuscita ad averla prima di partire in tournée, subito. Sì, sì. Beh, quindi si l'ho posseduta in maniera artistica, qua, su sti tavoli. Si parla di ottobre. Sì, sì, subito. Come è cominciata la trasmissione, Emanuela l'ho subito precettata. Siamo tornati un po' da un po' di tempo, però poi io poi non contento, subito dopo ho fatto un monologo al Teatro della Cometa, che ormai l'impegno era preso, era fissato, insomma, e invece di riposarmi sono andato a fare anche quel monologo, che è andato anche discretamente bene. Adesso mi sto un po' rilassando, però insomma sai com'è, poi noi senza lavorare non ci siamo. No, ci perché l'abbiamo detto pure prima, per noi è un grandissimo divertimento. Saluto Valerio dall'altra parte del vetro, che visto che il campionato è finito, lui è tranquillo, se la Roma gioca fuori casa, lui era in casa... e veniva a fare la trasmissione, un po' come i nostri tecnici del suono al doppiaggio, no? Dipende, da come è andata la partita. Mi guarda, mi parla, non mi risponde, mi manda delle cose o non le manda. Senti, voglio sentirmi un'altra cosa dell'amico Francesco, ce ne ha tantissime. Ma un Philadelphia di Denzel Washington, Denzel Washington di Philadelphia, grandissimo film dove Tom Hanks è proprio... ne è valso anche il primo Oscar e poi seguito l'anno dopo da un Forrest Gump straordinario, ma di quello ne parleremo con Francesco fra poco. Vai con questo Denzel Washington. Dimenticate quello che avete visto in televisione e al cinema. Non ci sarà nessun testimone a sorpresa, nessuno crollerà qui sul banco con una pietosa confessione. Vi verrà presentato un semplice fatto. Andrew Beckett fu licenziato. Vi verranno date due diverse motivazioni, la nostra e la loro. Sta a voi setacciare strato dopo strato la verità per riuscire a determinare quale versione sembri la più veritiera. Ci sono alcuni punti che devo provarvi. Punto numero uno: Andrew Beckett è un brillante avvocato, un grande avvocato. Punto numero due: Andrew Beckett, colpito da un male debilitante, fece una scelta comprensibile e personale. La scelta legittima di non divulgare la notizia della sua malattia. Punto numero tre: i suoi superiori scoprirono la sua malattia. Beh, bello. Poi Denzel Washington non l'hai mai abbandonata, avete cominciato braccetto. Beh, diciamo, poi, siamo cresciuti insieme. Sì. Ma questo poi fu un film straordinario, c'era la canzone di Bruce, Bruce Springsteen. Philadelphia. Guarda quanto è bravo, guarda, la trova immediatamente Valerio, Philadelphia. Di Bruce Springsteen, che cosa è successo dall'altra parte? Se potessero vedere, ha allargato le braccia, si sta sbattendo in tutto lo studio. Mi piace metterlo in difficoltà. Mi dispiace, se sapevano. No, no, devi farlo, perché insomma devi dare la gioia a questi signori di stupirci in qualche modo. Vabbè, ma quella è una canzone, dovreste averla nei vostri archivi, no? Ma che ecco, Valerio, ma quali guarda, archivi? No, Radio 24 ha degli archivi. È Valerio che è straordinariamente pronto. Guarda quanto tempo passa prima che trova la canzone Philadelphia. No, l'ha già trovata, sta allacciando le scarpe. Si è preparato delle cose su Boris di sua iniziativa. Ah, bello. Cioè, non è si è sentito... Cagna maledetta! Che cos'è? Cagna maledetta. No, no, no, ma cosa fai? Ma non è una radio privata e tu mandi una situazione del genere quando credi tu? Arrivano tantissimi messaggi, ovviamente, finalmente il grande Pannofino, bravo, eccetera. Io poi leggo anche quelli negativi, ma non ci sono. Poi arrivano sempre su di me. No, qualcuno c'è sicuro. C'è sempre, ma no. Poi io li leggo perché è giusto dare la forza a tutti. Ma anche Francesco ha doppiato... Madonna, quanti messaggi... Francesco, come hai fatto a conquistare Michelle Pfeiffer? Ah, si riferisce a Manuela Rossi. Vabbè. Opera giovanile. Pure. Anche quella è un'opera giovanile, l'ha convinto con la voce. Abbiamo fatto tutti con la voce, poi hanno acceso la luce e ci ha rovinato la fisicità. Siamo neri per quanto riguarda la voce, ma poi accendendo la luce uno se ne accorge. Pannofino ha doppiato anche lui Pornazzi. Si ricorda qualche titolo? No, è no. Che te dico. Mi ricordo che mi girava la testa, perché quando fai i fiati, esatto, dopo un po' ti gira la testa per mancanza di ossigeno. Esatto, ma poi vai in iperventilazione del cervello. Esatto. Cosa che non capisco, che doppiare quei film dove ci sono scene d'azione, sono sempre anelli stretti, corti, perché vai in iperventilazione del cervello e rischi di svenire, perché esatto, è difficile. Voi pensate a un combattimento. Sì, ma è una roba. Buono, che... buono, Francesco, senti qua. L'ha trovata. Ci ha messo solo 4-5 minuti, hai visto? Vabbè, bisogna tagliare tempo, ci vuole tempo. No? Sì. Vai, facci sognare, Bruce. Che bello questo. Un video straordinario. Non sbaglio, vinse l'Oscar anche la canzone. Sì, la canzone, vinse tutto quel film. Eccolo, Bruce Springsteen. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away in the streets of Philadelphia? Lasciala sotto, arrivato un messaggio anche per Valerio. Valerio, sei stato un grande, ma dai, ma non è possibile. Ammazza Valerio. Ti capito? Riceve degli sms anche, ma secondo me sono i parenti che lui sta cercando di prendere una posizione all'interno della radio. Ma di quello, vedi come mi correggono qui, Radio 24 è molto attenta, ma di quello ne parleremo? No, di quello parleremo, attenti alla nostra bella lingua italiana. Vabbè. Ah, perché hai detto di quello. Sì. Se dici di quello non puoi mettere il né. Né. Capito? C'ha ragione, però ammazza, non c'è proprio niente. No, non passi. È una cosa pazzesca. E passategliene qualcuna, no, dai. No. Io mi ricordo un io ne ricordo solo uno di titolo straordinario, devo dire, di quel periodo dei film a luce rossa, perché l'ho detto credo anche un'altra volta, ma non mi stanco mai di ripeterlo, quel titolo di un regista geniale, era impostato tutto dentro una gioielleria, quel film in luci rossa, e il titolo era Eiaculazione da Tiffany. E io credo che no, non ce n'è. Vabbè, ma è una parodia. No, ecco, beh tutti quanti, sai, mia moglie davanti di dietro tutti quanti, cioè quei titoli. Sì. No, che prendono in giro quella situazione, Biancaneve sotto i nani, eccetera. No, cioè, sanno, ma c'è una fantasia erotica intorno però a quel, quella roba lì non c'è più adesso. No, ormai non credo ci sia più gente che doppia i film. No, che vada tutto in originale ormai, purtroppo internet, il limite e il grande pregio di internet è lì, nel senso che adesso bisogna stare attenti come clicchi. È chiuso un mercato. Sì, è un mercato internazionale. Il mercato dei film, sì, dei film di luce rossa. Anche perché si guadagnava pure abbastanza bene in quel periodo, ma non è di questo che dovevo parlare lo startup. Dico, ma quanti anni avete? Parlate della Valle dei Pini. Abbiamo l'età giusta. Quella sì, Valle dei Pini era 1900, i primi anni 80. Poi io la doppiavo perché mi chiamo Pino, non per altro. Ah, insomma. Ecco, per quello l'avevano scelto. Beh sì, è solo per quello, perché ancora non andavo. C'era un periodo che io portavo gli occhiali tondi e mi facevano doppia tutti quelli con gli occhiali tondi. Ma dai, era così. Qual è stato il primo film dove c'è stato proprio il cambio di marcia? Dove... Gli Intoccabili di Brian De Palma, con il maestro Giorgio Piazza, che mi fece fare uno dei quattro. Eri Andy Garcia, chi eri di no, loro? Ero... Andy Garcia era Massimo Giuliani. Sì, ero Charles Martin Smith. Ah, quello era... piccoletto con gli occhialetti. Sì, tondi, l'economo, diciamo, il commercialista. Esatto. Del e poi c'era Sean Connery, Pino Locchi. Esatto. E c'era Kevin Costner, Michele Cammino era, no, ancora? Sai che forse era Sergio Di Stefano o Michele Cammino, non mi Sergio ricordo. Di Stefano. Forse c'era Sergio Di Stefano. Di Stefano, gli tocca grande musica di Ennio Morricone. Ah, grande film quello lì. E lì poi, c'era De Niro, c'era Al Capone. Non sei niente, sono chiacchiere distintivo, famoso, sì. Grande Ferruccio, mamma mia. Di quello poi ne parleremo, che faremo una puntata con le persone che hanno dato forza a questa grande professione che è il doppiaggio, che l'hanno reso la prima generazione, forse la seconda, perché la seconda è Ferruccio Amendola, sì, è la seconda, Locchi, Rinaldi, Barbetti, quella è la prima grande generazione. Poi c'è uno che ha creduto in me dall'inizio, che è il nostro amico Maglio De Angelis, che credo sia stato ospite domenica scorsa insieme è venuta con Eleonora, che è sempre una grande ironia, 82 anni spesi. Benissimo. Beh, è uno anche che oltre a insegnare il lavoro insegna anche come affrontare questo lavoro, sì, senza prendersi troppo sul serio, prima mai, di tutto, assolutamente, cercando di fare l'essenziale, cioè quello di dare emozioni in un'altra lingua e cercando di essere più vicino all'originale possibile. Respira insieme a lui, come ti dicono sempre. Esatto, bravo. Lui respira con lui. Noi respiriamo con voi, siamo arrivati alla fine del primo blocco insieme a Francesco, ma rimarrà con noi un altro po', qui continuano ad arrivare dei complimenti, non più a Valerio, ringraziando il cielo, ma a Francesco. E allora rimanete con noi, ma soprattutto rimanete con questo grande ospite e caro amico Francesco Pannofino. A tra pochino. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, con me Francesco Pannofino. Mi hanno corretto anche un congiuntivo, va bene, ormai sono i segnetti rossi e quelli blu c'ho per radio, ma va bene così. Ma te conviene prendere un po' di ripetizioni, perché sì, qui mi ammazzano. Per me Voice Anatomy finisce qui. Una maestra, c'è una maestra elementare. Esatto, che mi può parlare all'orecchio, perché anche un altro messaggio su Valerio, ma smettetela, Valerio fai bene, prendi tutto il tempo che vuoi, tu sei un grande Francesca, diciamo Francesca smettila di fare il tipo. Ti fanno un'altra domanda, però prima di queste avete una memoria fantastica, cosa mangiate, va bene? Ciao Pino, oggi grandi saldi a Voice Anatomy, due Denzel Washington al prezzo di uno. Vabbè, io l'ho doppiato soltanto in American Gangster, ho preso il posto del mio amico Francesco un momento di passaggio, ma poi subito ridato indietro al mittente. Condividiamo, non c'è problema. Ma anche non le mogli, ovviamente, non Michelle Pfeiffer, no, lì no. Allora, abbiamo una telefonata molto particolare e spero che sia anche giusta, voleva salutarci e facciamoci raccontare da lui in che situazioni si trova. Pronto? Pino? Sì, Pino è qui. Saluta a te e al grande amico tuo lì di fianco. Ciao. Sì, il grande Francesco è qui vicino a me, Pannofino. Senti, dimmi, ma c'è un problema? In questo momento sei a casa perché? Perché purtroppo sono in detenzione domiciliare, scusami. No, ecco, no, noi l'importante, ecco, è particolare questa chiamata, ma si può telefonare fuori tranquillamente? Non vorremmo. Penso di sì. Sì, perché non vorremmo. Non lo so. Non lo so, davvero ti dico, non lo so, però mi fate tantissima compagnia. Vabbè, non diciamo il nome e il cognome, almeno quello. Cioè. Ma guarda come entra qualcuno e Francesco viene portato via insieme. No, no, non credo. Da dove chiami? Allora, io chiamo dalla provincia di Teramo. Ti avevo fatto un messaggio qualche settimana fa perché purtroppo non potevo andare a guardare tuo figlio. So che ha giocato. Gioca a Teramo, sì, gioca con il Teramo, sì. Matteo, sì, una bella realtà, devo dire che. Davvero, davvero, davvero, in gamba, davvero. Grazie. E poi vi volevo dire, scusatemi l'emozione, perdonatemi davvero. No, no, no, tranquillo. Dici io tutto. Sono un laziale di Pescara, figurati Pino. Beh, allora tu, noi almeno siamo nati qui e ci accogliamo sta colpa e sto peso. Capisci? Tu invece l'hai scelto proprio. Pescara, tu sai la rivalità che c'era anni fa, ancora sì. Adesso purtroppo. Lazio Pescara, sì. Ricordi bene. E allora ho approfittato per chiamare oggi perché c'è il grandissimo amico tuo lì. Sì, amico di tutti poi, perché Francesco sì, è una straordinaria. Siete grandi, davvero. Ti ringraziamo davvero di questa stasera affetto. Pescara però gioca la finale forza Pescara stasera l'amico Oddo c'è l'amico e il papà è un grande il figlio anche sono bravissime persone davvero. E allora oggi forza Pescara dai adesso sempre, non so contro sempre, chi gioca sempre. Però insomma Trapani. Col Trapani Pescara Trapani sì l'andata dei playoff. Ma no, ma lui vedrai che ce la farà, c'è un grande La Padula lì. Ma questa però è l'altra trasmissione, quella che viene dopo di noi, tutti convocati, con Capuano, sì, Pardo. Però va bene così, anche questa ci stiamo declinando anche verso questa situazione sportiva. Comunque, va bene, amico mio. Vi volevo fare i complimenti. Grazie. A tutta Radio 24 perché mi fa una compagnia enorme dalla mattina con Alino Milan fino alla notte, io sento sempre voi. Siete grandi. È una bella radio, veramente. Non vogliamo togliere nulla davvero. A nient'altro, ma è una radio veramente completa. Poi quest'anno, con questa scelta del sabato e la domenica di accompagnare le persone, oltre che dal lunedì al venerdì, con questi talk diversificati, devo dire che sia Barisoni che il nostro punto di riferimento insieme al grande capo Roberto Napoletano, devo dire, hanno avuto delle belle intuizioni e meno male aver fatto parte di queste belle intuizioni. Va bene, grazie e non so che dirti, passerà in qualche modo, mi auguro che... Ciao, stammi bene, buona domenica. Cercheremo di farti più compagnia possibile come a te e gli altri amici. Bene, attaccato, siamo salutati. Non so che cos'è questo messaggio... magari avere una voce come la vostra, dice qualcuno, avete una voce jazz, super dolce, sexy, profonda, armoniosa, non possiamo dire altrettanto dei nostri corpi. Credo di sì, una è Francesca, l'altra spero di no, sì. Se no, siamo... Però detto da un uomo fa ancora più piacere, un uomo a tutto tondo sì. Che fa un complimento ad altri uomini. Tu pensa che George Clooney, mm-hmm. che ha una bellissima voce, di cui lui è molto fiero, tra dovrebbe fece... essere fiero anche di quelle italiane. Fece i complimenti pubblici quando andò da Fabio Fazio in televisione, gli fecero sentire un pezzo di un film che lui stava promuovendo in quei giorni e quello gli ha detto ma ti piace la tua voce italiana? E lui ha detto sì, molto, è anche più bella della mia, che è tutto dire. Loro sono molto umili, ma lui a differenza di molti attori americani non sai che c'è un po' la voce da paperino. Senti Marlon Brando, invece lui ha un bel vocione profondo, di cui ripeto va molto fiero, quindi insomma i complimenti però, ma lo prendo anche perché la tua ci sta tutta, la tua voce è veramente straordinaria. E allora a questo punto l'hai nominato tu e sentiamocelo in Ocean Eleven, la voce di Francesco Pannofino su quel gran figo di Josh Clooney. Vai. Ciao Tess. Che ci fai qui? Sono uscito. Sei uscito? Di prigione. Ti ricordi quando sono andato a comprare le sigarette e non sono più tornato? Lo avrei notato. Io non fumo, non ti sedere. Mi hanno detto che ho ripagato il mio debito con la società. E io non ho mai ricevuto assegni. Non porti più la fede? No, l'ho venduta. Non ho più un marito e non hai avuto i documenti? Il mio ultimo giorno dentro. Ti ho detto che avrei scritto. Danny, vattene adesso, prima che... Cosa? Benedict, sono venuto qui per te. Voglio ricominciare a vivere e voglio farlo con te. Tu sei un ladro e un bugiardo. Ho mentito solo quando ho detto di non essere un ladro, ma adesso non lo faccio più. Rubare? Mentire. Ora sto con un uomo che non deve fare questo genere di distinzione. No, conosce bene tutte e due le cose. Beh, voce volto, dai. Beh, no, è veramente, si sposa benissimo, perché qui la ammorbidisci molto, mantenendo ovviamente la tua caratteristica. Su Denzel Washington è un po' più graffiata. Eh beh, sì. Però io cerco, e anche tu credo, di andare abbastanza dietro all'interpretazione dell'attore originale. Poi, avendo la fortuna di doppiare attori, insomma, affermati, che insomma comunque sono bravi, eccetera, perché in America è difficile emergere se non sei bravo. Non c'è niente di meglio che cercare di seguire l'interpretazione originale. L'ha già fatta lui, come l'ha già fatta lui. Io, ecco, detesto un po' quando qualcuno nel nostro lavoro tenta di cambiare. Cioè, un tempo si diceva, ma miglioriamo lo strumento. Ma cosa migliori? No. In film non si migliora né si peggiora. Si fa la traduzione come in un libro, esatto. Si fa la traduzione fedele all'originale, cercando di mantenere. Poi, laddove ci sono dei modi di dire, ovviamente c'è un adattamento che ti aiuta. In inglese funziona, in italiano no, si cerca di trovare un compromesso. Però cambiare per cambiare io l'ho sempre combattuta come cosa. No, uno ci mette il suo valore aggiunto, che può essere quello dell'interpretazione, cercando di ridare quello che lui ha dato in originale, insomma, che è sempre tanto perché importante. Perché poi è successo nel passato che i nostri maestri, diciamo, anche in buona fede, facendo un po' come gli pare, che cosa hanno fatto? Che hanno inventato la figura del supervisor, che a un certo punto del nostro lavoro è arrivata sta figura che controllava, sì, quello che noi italiani facevamo. Il preside. E allora il preside ha portato poi via risorse che potevano andare a chi lavora. Esatto. Invece di, perché, capito? Perché poi quando uno viene qua, hotel a 5 stelle, cose, costa business, e tolgono risorse a chi fa poi il lavoro. Esatto. Effettivamente. Proprio l'altro giorno stavamo in Sefite proprio a doppiare Il Trono di Spade, c'erano dei controlli, non potevi neanche telefonino. Sì, per la pirateria. Sì, ho capito, ma che ti metto a fare? Cioè, mi metto a riprendere. Noi la gente non lo sa magari, ma vediamo il film, quelli importanti, in bianco e nero, sì, in controtipo, pieno di scritte. Ma che vuoi rubare? I loghi, le cose. Che vuoi mettere in internet? Una cosa, no, adesso non so più, c'era un tempo, non so, ti ricordi, si doppiava attraverso un buco, come nel buco della serratura. Ancora dei film vedi solo le bocche che si parla. Star Wars è stato così. Star Wars è stato doppiato così. Matrix è stato doppiato così. Sì, ma anche Mission Impossible. Sì, solo la faccetta. I film, diciamo, un po' più di cassetta. E vedi la faccetta e non sai questo dov'è, con chi parla, esatto, che sta a fa, come. Ho doppiato Lizard nell'Uomo Ragno, c'aveva ancora Agoda disegnata, non c'aveva lui, poi parlava normale. E io dovevo capire questo, poi che voce, esatto, col grande maglio De Angelo. Ha detto, tu fai una voce da lucertola. Ma com'è la voce da lucertola? E vabbè, qui ci chiedono tante cose. Francesco, potresti salutarmi con la voce che hai dato a Tom Hanks in Forrest Gump, e ne parleremo fra un po', dice Luca Zaffuto da San Biagio dei Platani. Telefonata un po' triste quella di prima, ma sì, in effetti non sapevamo, e non sapevo io soprattutto come interfacciarmi a una telefonata del genere. Non sapevo, beh, neanche, però è una persona, sì, che sta, sì, in difficoltà, però la, esatto, radio, la radio anche mette anche, fa tanta compagnia a queste persone in particolare. La radio, sia proprio, ne parlavamo prima che cominciavamo la trasmissione con te, è una forma di evocativa. Attenzione, bellissima. Prima di cominciare, no, la trasmissione, no, comincia... email. No, nella pausa, prima di cominciare l'intervista, ecco, con te, prima di cominciare, attenzione, tu hai già capito che qui, no, mi correggo. No, prima di poi cominciare i quadri, sì, ti cacciano via in un attimo. Prima di cominciare, la radio è veramente uno dei mezzi più belli, come un bel libro, è evocativa, è, no? Perché poi stuzzica la fantasia dell'ascoltatore, cioè, a te piace, l'hai fatta radio, sì, l'hai fatta, sì, tanto, l'hai fatta tanto. Radiodrammica è una cosa che bisogna, bellissimo, tornare a fare, non si fanno più, no, nessuno li fa più, bellissimo. Veramente, io con Diego Cugia, grande autore, feci tre romanzi sceneggiati, veramente veri e propri, tante puntate, bellissima, era una cosa stupenda, aveva anche un buon ascolto, cioè avevano anche un buon ascolto, alle 9 del mattino li mandavano, poi si è persa questa bella, è come un buon audiolibro fatto bene, cioè ti fa compagnia in macchina. Vedi, l'audiolibro è un'altra cosa che ancora in Italia non ha preso, no? non ha preso così tanto. Io non ho fatto, penso anche tu l'hai, sì, fatto, sì, sì, però poi non c'è mercato ancora, è perché è difficile, devi mettere in evidenza, sai, in tutti i posti devi mettere davanti, quando entri nel negozio lì non c'è la forza ancora economica di poter affrontare una cosa del genere, non no? So, della distribuzione. È quello la cosa importante, però qualcosa succederà. Tranquilli, torniamo. Soprattutto torna Francesco Pannofino ai microfoni di Radio 24. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci. Devo dire che è la prima volta in quasi 40 puntate che sono qui, che mi uniscono all'ospite. E mi fa tanto, tanto piacere. tantissimo. Normalmente faccio il conduttore qui, devo fare almeno un passo indietro come deve fare il conduttore. Però in questo caso sono loro che mi fanno sentire molto vicino a te e mi fa tanto piacere unirmi. Cioè dicono sei meglio di me? No, no, no, ci uniscono nei complimenti, no, quello no, quello non lo dicono. È anche bellissimo. Però sai, sui social si divertono a fare delle gerarchie, delle cose abbastanza visibili, che poi dopo insomma... Ma ognuno c'ha la sua. Ma perché tu puoi dire chi era più bravo tra Pino Locchi e Cesare Barbetti? No, non si fa, cioè sono due stili diversi. Sì, Renato Turi e Giorgio Piazza, che ne sono due simili. Come fai? Cigoli e Panicali. No, non puoi fare una gerarchia. Uno può dire Amendola è il mio preferito perché ha doppiato dei film straordinari, ma poi non puoi dire che è meno bravo di Sergio Di Stefano piuttosto che di altre persone. Ecco il film che magari doppi, in cui gli dai una forza che non finisce mai, te lo ricordi e diventa... Per esempio poca gente sa che Rocky 1 era Gigi Proietti, sì, non era Ferruccio, sì, Amendola. È lui che ha inventato Adriana, fatto in quel modo, e quella coattaggine nasale di pugile rintronato quasi romano, se lo sentite, tartaruga, resta in città, era il limite, esatto, proprio della, no, della sporcatura. E a proposito del limite della sporcatura, qui urlano Boris a tutto spiano, cioè... ma è bello avere delle condanne, no, artistiche nella vita. Ma figurati Pino, io devo tutto a Boris. Molto dal punto di vista dell'attoriale, dell'attore, sì, della, sì, lavoravo al doppiaggio tantissimo, teatro. Ma avevo fatto anche un po' di cinema, qualcosa. Però Boris, poi, anche se è stata una nicchia, anche se è una grande nicchia, sì, ma però è entrato tanto in un immaginario, sai com'è, no? Se tu puoi fare l'attore per tutta la vita, ma se non fai la cosa che poi piace, esatto, al pubblico, entra un po' anche nel gusto e nell'immaginario. Devo dire che quella è stata una fortuna. Boris, a me, quando mi è arrivato il primo copione, ho fatto il provino per fare René Ferretti. E chi li conosceva? Io non li conoscevo loro. Certo. Mi avevano chiamato per fare il provino e ho fatto il provino e niente. Ho detto fermi tutti, ecco qua. Trovato. Devo dire che è stato un incontro attore-personaggio veramente felice. Sì. Cioè, ecco, quella è la fortuna. Non sei, capito? Così, tu, diciamolo. Cioè, no. Non è che sei così. No, però c'è, dentro di te c'era il quell'anima. Il personaggio si incollava, sai, si incollava perfettamente a me. E quindi, tra l'altro, pure facevo poca fatica a imparare a memoria, e quello vuol dire che ci sei, capito? Ce lo sentiamo un pezzetto di Boris, che Mauro Meconi convive con Boris, l'autore Mauro, non l'attore, ecco, Mauro Meconi. Ecco, lui è ridotto così, Bonacci. No, è distrutto, lui è Boris, lui dice quando sono triste mi metto un pezzo di Boris, non vedeva l'ora oggi. Vai! Fotografia! Dimmi René! Ma che cazzo vuoi tu, Duccio? Oh, Duccio, senti. Ti ho dato problemi, ragazzi. No, volevo questo carrello lungo ad andare e a tornare. Vorrei che mi facessi Diglielo a lui che poi glielo spiego io come si fa la... Senti, non mi pia per culo, Duccio. Io voglio te. Basta con la fotografia da fighetto del sto stronzo. Capito? Io voglio la roba tua. La roba tua, un tanto al chilo, hai capito? La roba tua di una volta. Voglio che apri tutto. Voglio che smarmelli. Ti voglio bene, René. Anch'io. Restiamo uniti. Voglio che smarmelli. Voglio che smarmelli. Quei suoni. Uno dei tormentoni. Con Duccio, che era il grande Ninni Bruschetta. Ninni, che lui è da oltre che da ospitare, grande uomo, attore, grande regista, grande, sì, scrittore, scrive, sì, anche dei libri, oltre che però è veramente un grande compagno di lavoro. È vero. Nella è prima vero. Serie che c'era, stavamo lì con un piatto di lenticchie perché non c'era una lira, era, sì, proprio tutto molto così, quindi anche i camerini. Poi nella seconda serie già ci davano i camerini con i nomi e cognomi, lì eravamo tutti. E io ero in camerino con Ninni Bruschetta, che siccome ha una cultura superiore alla mia, mi faceva sentire un ignorante, ti giuro, detto, no, ti prego non parlare più, che mi fai sentire male, perché lui sfoggia tutta la sua cultura. E mi dice, è forte. Senti, tu parla, però se mi addormento non ti offendere. Non ti incazzare, esce fuori tutto il tuo magari. Noi parliamo ancora di Boris, veramente, che è straordinario. Chi se l'è perso, ne ha sentito solo parlare. Ci sono dei DVD o DVD, come si diceva una volta, pronti per essere usati e studiati. Ciao Francesco, in intervista hai detto che non c'è un grande ricambio generazionale nel doppiaggio, secondo te perché? Vabbè, ma non è vero quello che l'ho detto. No. Ma non lo so perché frequento meno. Poi sai com'è adesso, no? Fai le colonne separate, tu arrivi, sei solo con te. Io non conosco, è vero, conosco poca gente di quest'altra generazione, sì. È difficile conoscere i giovani, capito? Allora, ciao Pino, ogni volta che c'è la tua trasmissione mi tocca ascoltare i podcast perché non faccio in tempo ad ascoltarla. Bene, ciao Pino, ciao Francesco, ricordo la Giusy Raspanidandolo, che tipo? Ma chi era l'attore dei biscotti Cruscoro? Non lo so. Non lo so. Non l'ho capito. Non lo so. Ciao, un sogno da quando sono bambina. No, Giusina Spalinando lo sì, sì, sì, grande però attrice. I biscotti non lo so. Forse faceva pubblicità di sì, biscotti. A Carosello, non so neanche qual è la marca. Bah. Ditecelo voi se lo sapete, i biscotti Cruscoro. Va bene. Ho un sogno quando sono bambina, assistere ad una vostra sessione di doppiaggio. Siete due grandi, complimenti, Vito. Dall'A14 ci chiama lui. Ah, proprio dal... Sì, sì, fa compagnia. Beh, spero si sia fermato per scrivere. Sì, è vero, altrimenti non arriverà mai la risposta. Siete due mostri sacri, vedi, arrivano dei complimenti abbinati e sono molto... Vabbè, avendo più o meno non la leggo quello età. Che mi sta scrivendo Mauro, non riesco... Cosa? Un altro contributo di Boris. Vabbè, siete veramente malati davvero. Va bene, mandiamo un altro contributo di Boris, vai, sempre di Il suo nome è Ferretti? René Ferretti? Senti, a pezzo di merda, io vengo da Fiano Romano, capito? Come si io ti stampo la sicquina in faccia, vieni fuori, c'ho il trick in macchina, te lo faccio vedere io come mi chiamo, sto stronzo, sto pagando dei miei coglioni, capito? Sta attento a come parli, io ti ammazzo, capito? Dio della mignotta, come mi chiamo? Buono, buono. No, scusi signore, che... Capito? Sto stronzo! Dai, buono! Dai, buono! Dico io! Oddio, adesso gli sbrocchi di René Ferretti. Mancava Giuseppe Cruciani e poi eravamo completi con la zanzara e via, via. Pensa che su YouTube c'è uno che si è messo a fare tanto la briga di mettere tutti gli sbrocchi di René Ferretti uno dopo l'altro. Che poi è faticoso perché sono strilli veri, mi incazzavo veramente. Che poi gli autori lì sono molto esigenti, non è che finché non la fai bene. Si riusciva a improvvisare sul set, c'era una base all'inizio, buona. All'inizio sì, diciamo che molti di noi si allargavano. Mm-hmm. Poi a un certo punto l'allargamento è diventato troppo e allora hanno messo la regola, si dice solo quello che c'è scritto, che tra l'altro bastava e avanzava perché era scritto molto bene. Bello, questo è un grande complimento. Chi era prodotto la serie? La Wild Side. A parte questo? Non ti chiameranno più? No. Vabbè, la Wild Side, basta, va bene così, tu stai cercando il nome. Pino e Francesco, una trasmissione insieme per l'infanzia a Radio Lorenzo 24. Lorenzo Mieli, scusa. Lorenzo. Beh, attenzione, che grande produttore. No, lo so, ma lui però ha cominciato, è stata la sua prima grande intuizione. Sì, poi... Infatti dobbiamo molto a lui e anche allo staff di Sky. È una grande, squadra. Boris è la prima serie prodotta da Fox Italia. Quindi di Sky è rimasta l'unica perché aveva fatto Poi Romanzo Criminale. Ah, Romanzo Criminale, Fox, sì, io parlo di Sky, sì, Lorenzo Mieli poi ha prodotto. Sì, Wild Side, però poi insieme a Fox. Esaltiamolo, insomma, sei in ascolto, Lorenzo. Lorenzo è un giovane produttore che secondo me ha delle buone. Sì, l'ho conosciuto, ha delle grandi intuizioni, veramente. Una bella trasmissione per l'infanzia Radio 24, io e te, che include anche l'economia domestica. Ma non so come affrontarla, però io e Francesco ci chiedono di fare questa trasmissione. Parliamo con l'editore. Ma non lo so, perché l'economia domestica è una battuta di Forrest Gump. Ah, pensa, vedi. Grazie, vivi doppiatori, dice Maria Laura. Insegno quanto parli, soffri di ipertensione, curati. Ma il suo mestiere, se non parla, che fa? È vero che voi dovete assolutamente sentire al 70% 80% Francesco, al 20-30% me, ma io cerco di ovviamente far sentire a proprio agio chi viene, di dare pure il tempo di respiro e far godere della sua presenza Francesco Pannofino. Per cui Boris, avete fatto tre stagioni di Boris? Tre serie e un film. E un film, sì, assolutamente. E infatti sì. Poi col film diciamo che si era dichiarata chiusa la saga, come si dice. Però ci sono da più parti spinte a volerlo rifare, ma d'altra parte non è male, lo so, ma non dipende da noi attori, dipende dagli autori che si devono rimettere insieme. Allora, Lorenzo Mieli, se sei in ascolto, facciamo un appello. Dai, faccio magari una guestare in una puntata soltanto. Ma, no, ma credo che anche lui sia d'accordo a rifarlo. Allora, il problema è mettere d'accordo gli autori. Cerchiamo degli altri autori no, perché loro sono bravi. Invita gli autori qua, così almeno. Non so come si chiamano, non so gli altri. Giacomo Ciarrapico, Mattia, certo. Torre e Luca Ventruscolo. Allora, Ventruscolo, Torre e Ciarrapico. Dico, volete venire ospiti a Radio 24? Dobbiamo parlare di una cosa fra di noi. Serve. Però l'impressione è più glielo diciamo e meno lo fanno. Vabbè, uno dice voglio lasciare un grande ricordo di un grande successo, però è un successo che si può reiterare. Sì. Io ve l'ho detto prima che diventavo tutti vecchi, rifacciamolo. Esatto, muoviamo. Che già ci siamo quasi. Allora, Navarro, Meconi, cercate questi autori e incastrateli in una puntata di Voice Anatomy. A quel punto non li facciamo uscire qui se non firmano un nuovo contratto per Boris. 4. Ancora grandissimi complimenti. Sì, bisogna arrivare a Forrest Gump, ma ci arriviamo al blocco successivo, all'ultimo blocco insieme a Francesco Pannofino. La radio mi sta dando veramente grande soddisfazione. È più facile invitare degli amici, assolutamente, ma dei colleghi in questa trasmissione che magari una trasmissione televisiva, perché la radio è più bella. La televisione c'ho tutta un'altra solennità, tutta un'altra. Sì, sono liturgie anche un po' ataviche. Sì. C'è quella finzione che magari può anche allappare. Poi la radio è più libera, tu qui puoi venire con i jeans, con le scarpe vecchie, la maglietta di ieri, esatto. Uguale, capito? Invece in televisione ti pensate, ti fai i capelli a barba. Sì, io parli come Boris, capiscono che sei venuto mezzo un mutaco in short. No. Cagna maledetta, però è bello. Cagna maledetta io lo utilizzo ogni tanto quando trovo delle. Cagna maledetta. Questa è la versione introspettiva di Cagna Maledetto. Lo sai che mi ha detto Carolina Crescentini? Sì, che non è Cagna Maledetto, no, ovviamente. Che le attrici la invidiano perché vogliono che... Anche a loro. Molte attrici mi dicono, dai, mi dici Cagna Maledetta. È feticismo puro, come Prusti. Autolesionista. Mi fai male. Così. Però è bello, perché c'è un esercizio di stile in Cagna Maledetta, lo si può dire romantico. Cagna Maledetta. Arrabbiato. Cagna maledetta. Ironico. Cagna maledetta. Capito? E allora, a tra poco con Voice Anatomy e Francesco Pannofino. Cagna. Voice Anatomy. Siamo stati rapidissimi, siamo tornati in compagnia di Francesco Pannofino. Ciao, ciao. Parlatemi della foto smarmellata, dice Raffaella. Da Torino. Ciao Pino, Francesco, due grandissimi doppiatori. Francesco, cantaci Chuck di Boris. E che ci sei. Un bacione da Dennis di Palermo. Che cos'era? Chuck è una canzone che ho scritto. Ah sì, quella del film, della serie. Sì, beh, l'ho scritta così mentre stavo lì nei camerini a aspettare che toccasse a me. E quindi, sai, quando stai tanti mesi nello stesso posto, insomma, diventa un po' casa tua. Me l'ho portato la chitarra e così me l'è venuta sta canzone che poi hanno messo come sigla dell'ultima puntata della prima serie. Ed è piaciuta, devo dire, parecchio. Come fa? Tu sei un bravo cantante. Madonna mia, che faccia, ma che mattinata, che ancora un altro po' me la sarei dormita. Ma c'è gente che mi aspetta e che non vede l'ora di battere il Chuck. Questa è la prima strofa. A me lo sento con te. Beh, perché... se trovi Chuck, veramente sei un. No, grande. Se trova Chuck, capirai. Valerio non si regge più se la trova. No, vabbè, si è messo adesso, ha lasciato tutto, cursori, niente, qualsiasi cosa capiterà. Come in Maria delle Onde. Sì, no, chissà che cosa succederà. Da tantissimi compiti, ma oggi veramente vi state sbizzarrendo. Ciao Pino, ma i doppiatori romani hanno una marcia in più rispetto agli altri, dice Giorgione. No, nasce a Roma. Non sono solo romani. No, assolutamente, anzi. Diciamo che si fa più che altro a Roma, però si fa anche a Milano, a Torino. Però i doppiatori non sono solo romani. Dario Penne del nord-est, Trieste, per cui Bruno Alessandro lo stesso. Piemontese, abruzzesi, esatto, abruzzesi come Pedicini, Ianzante, insomma, no, sono tutti bravi. Franco Mannella, anche lui abruzzese. Cioè, d'Abruzzo devo dire che è una buona scuola. Sì. Ovviamente nascendo a Roma il doppiaggio sono ovviamente ci dà una specializzazione in più. Ma allora, maestro Ferretti, è vero che non si può fare una classifica dei doppiatori, ma parlando di attori, chi era meglio, Stanis La Rochelle o Arianna Dell'Erti? Cani tutte e due. A parte che, vabbè, Stanis La Rochelle, che lo faceva Pietro Sermonti, lui era proprio l'attore, ma sì. Arianna Dell'Arti è l'assistente alla regia, che la faceva Caterina Guzzanti. Sì, bravissima. Bravissimi tutte e due, ma c'è proprio Pietro che ci sguazza dentro quel personaggio. Bellissimo, beh, giocare a fare l'attore. Per un attore, fare l'attore, diciamo, che si vanta, è il massimo. Perché il massimo. Poi toppa come te pare, tanto dice, lo sto interpretando, non sono io. Bellissimo. Andiamo a... Cazzo, ma parli sempre tu. Ma non è vero, ma come parli? Ma non è vero, non sto parlando, c'ho la gola secca forse di parlare. Caro Insegno, ma quando doppi... No, vabbè, Chuck, l'ha trovata. Che aveva che oreggio più, mo Valerio. Chuck, madonna mia, che faccia, ma che mattinata, che ancora un altro po' me la sarei dormita. Ma c'è gente che mi aspetta, che non vede l'ora, battere il Chuck. Pensa che dolore se ci metti le dita, ma devo concentrarmi che la scena è partita. Se poi non mi ricordo oppure sbaglio la battuta, sono tutti costretti a fare un altro Chuck. Chuck, Chuck, Chuck, Chuck, passa la giornata, magari nel frattempo un'altra guerra è cominciata, una ragazza è sparita, eppure l'altra torre è crollata. Forse proprio mentre provi un'emozione stai polemizzando con la produzione. Oh, e so tre ore che aspetto, ci sei nel prossimo ciak. E allora tutti zitti con i propri dolori, che un giorno dopo l'altro nascono gli amori. Dai che se no ti distrai, però ti bacerei. E dai dai dai sbrighiamoci che c'è la partita, a me non interessa tanto guai nella mia vita. Ah sì, e come ti posso aiutare? Io provo a batterti un ciak. Ma che bella, è una bella ballata. Sì, no, quelle sono nelle pause. Nelle pause, bravo, sai che sui set si aspetta. Perché io poi, essendoci sempre, mi convocavano senza criterio. Arrivi ai 7, la mattina stavo lì a disposizione, più o meno certo. C'ero sempre nelle scene. Però capitava che giravano una scena dove io non c'ero e quindi aspetti anche 3-4 ore. E quindi mi mettevo, sì, mi mettevo lì, mi divertivo. Ma è bella no. Davvero. Qui canzoni quando doppi Stan Smith non ti viene voglia di saltare addosso a Francine. Ma dai, quello è un doppiaggio di American Dad. Ehi, Francine! Io voglio parlare perché rimangono ancora 5 minuti insieme. Forrest Gump non si può dimenticare. Forrest Gump non si può dimenticare, il grandissimo film, la grande interpretazione di Tom Hanks, e gli è valsa il secondo Oscar consecutivo. Sì. Ma soprattutto la tua grande interpretazione, perché tu non avevi mai doppiato Tom Hanks. Tom Hanks lo faceva sempre Roberto Chevalier, poi adesso Angelo Maggi. Però in quel caso i provini veri. Bisognava fare un'interpretazione perché Tom Hanks utilizzava, oltre a una caratterizzazione di uno che non parla bene, in più un forte accento dell'Alabama, che è difficile da fare in italiano. Esatto, come pugliese, come fai? Allora serviva, capito? Bisognava sporcarlo in modo di non avere accenti regionali, perché facevamo ridere i polli. Però avere un problema di che non si riusciva bene a articolare le parole. Che bello. Però è così andata. Penso che quando mi hanno scelto hanno detto non sei perfetto, però sei quello che si avvicina di più. Poi in corso d'opera, infatti poi la caratterizzazione l'ho trovata in corso d'opera. Poi infatti le prime scene le ho rifatte. Beh, no, è perfetto. Io adesso, invece di, normalmente facciamo fare ai nostri amici attori doppiatori qualcosa all'opposto con la voce, invece io voglio che lui si cimenti in diretta, non senza scaricarlo dal film, il momento in cui Forrest Gump parla sulla tomba della moglie, della donna che ha sempre amato. Beh, penso molto drammatico. È un pezzo commovente, bellissimo, commovente. Non gliel'avevo detto, ce l'ho qui, te lo do, e se ti va di reinterpretarlo per noi io sarei veramente felice. Adesso Mauro Megoni viene con... La se ripresa, sbaglio, perdonatemi. Sì, no, la ripresa anche video, perché così la mettiamo sui nostri Facebook e quant'altro. Sei morta un sabato mattina e ti ho fatto mettere qui, sotto il nostro albero. E ho preso la casa di tuo padre e l'ho fatta abbattere. Mamma diceva sempre che morire fa parte della vita. Magari non fosse così. Il piccolo Forrest se la cava benissimo, sì. Presto ricomincerà la scuola. Gli preparo colazione, pranzo e cena ogni giorno. Sto molto attento. Lui si pettina i capelli e si lava i denti ogni giorno. Gli insegno a giocare a ping pong. È molto bravo. Peschiamo tanto. Ogni sera leggiamo un libro. Com'è intelligente, Jenny. Saresti fiera di lui. Io lo sono. Sai, ti ha scritto una lettera. Dice che non posso leggerla. Non devo farlo. Perciò la lascio qui per te, Jenny. Non so se la mamma aveva ragione o se ce l'ha il tenente Dan. Non lo so se abbiamo ognuno il suo destino o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza. Ma io credo può darsi le due cose. Forse le due cose capitano nello stesso momento. Mi manchi tanto, Jenny. Se hai bisogno di qualcosa, non sarò molto lontano. Grazie, bello, ancora bello. Grazie perché veramente questa è una cosa di grande emozione. Ma poi è molto commovente. Adesso l'hai fatta come Francesco, cioè gli hai dato quell'anima di Forrest Gump, ma c'era tanto di te. Più si cresce, più si diventa sensibili. No, è bello perché gli hai dato quella dimensione in più. Di là c'è Alessia con le lacrime, Gaia che si sta nascondendo il volto. Valerio lo fa altrettanto, ma per altri motivi estetici. Non lui è un duro, lui non piace mai. No, a me è commosso. È commosso perché è come se hai letto, come se avessi letto una poesia di un autore famoso, cioè l'hai fatta tua. Grazie, no, bello, hai fatto bene a farmene leggere. Bellissimo, devo dire. Ogni tanto la memoria va rinfrescata. Insomma. Sì, no, ma bello, bello, veramente, scusate questa monotonia di nomi, di cose, di parole, non ne trovo altre, a parte meravigliose brividi qui di pomeriggio. Tantissimi complimenti ovviamente arrivano. Francesco, potresti salutarmi con la voce che hai dato a Tom Hanks? Sì, l'ha fatto adesso, insomma. Luca, ciao Luca, digli. Ciao Luca, stai bene? Ecco, la mamma dice sempre quella storia meravigliosa, questa musica straordinaria di Alan Silvestri. Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. E a noi invece ci è capitato il grande Francesco Pannofino, che io proprio ringrazio perché l'ho rubato al riposo domenicale, visto la grande tournée che ha avuto, ma sarei felicissimo di ripossederti artisticamente. Ma volentieri, visto che stai qua tutta l'estate, o no? Sì, credo che continueremo anche a luglio, però da settembre ti romperò le scatole. Va a luglio, bene, guarda, torno volentieri perché sono stato, adesso non per dire, ma veramente bene, a mio agio. Viva la radio e viva Pino Insegno, che è un grande, veramente. Che bello che sei. Grazie Francesco. Ciao, ancora. Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ed eccoci qui, signori miei. Voglio chiudere personalmente questa puntata speciale di Capodanno dicendo che, rinnovandovi l'appuntamento con Voice Anatomy, tornerà in diretta a 360 gradi domenica prossima, 8 gennaio. Saremo qui pronti a regalarvi altri momenti che riguardano la voce e non solo. Insieme a voi staremo in dolce compagnia. Vi ringrazio e vi auguro ancora un anno meraviglioso. Ci sentiamo domenica, 8 gennaio, Voice Anatomy, ovviamente, Radio 24. Auguri a tutti.